invece l'FM è il più occupa la radio, rimane, non è molto per la quale, non mi piace tanto, rimane più coperta. Però ora in AM è di lusso. Sì, vabbè, andare. No, per problema. È tutto ok, è tutto ok. Controllo Radio Santiago. Chi sono, sto là. Lo sa che il segnale non te lo posso dare perché non vedo né numeri né nulla qua. È a tacchette, me. Ah, è quante tacchette c'ha? C'è le tacchette, ma non quando scala. Sono 9:30. Vabbè, però arrivi in tutti con la scala, in occhi. Non è giusto come... come smettermi. Magari sto anche, magari fondo scala arrivano fondo scala perché sono vicini. Può darsi, lo vediamo. Mai. Sono su di Max, nella televisione non li posso mutare. Io stavo guardando quel programma di pesca poco fa, fortissimo. Me l'ho perso, gatto, mi sono svegliato troppo tardi. Mi guardo quelli dei pesci spada, dei tunni. Adesso stanno andando quello dei tunni, ho visto anche quelli dei pesci spada, non spada, non spada. Come, come? Già li avevo visti anche io quelli lì. Siccome è più presto, me ne sono alzato poco fa io e mi sono svegliato quando era già finito. Ah, è finito, penso che fossero le 6:45 così, che quando è finito le 5:30, una cosa del genere. Ok, va bene, mo vediamo. Oh, c'è una busta. Oh, c'ho anche picchi positivi adesso, cazzo, cosa che non avevo prima, te li mangi, tu li vedi, picchi positivi. Già si vede che sale il segnale. Prima era fisso, prima era sempre fisso, ha dei picchi di lusso, va bene, va bene. Domani vado io là e li porto tutti i fogli. Dove là? Li controllano. Ho capito, ho capito. E mai me lo dici che dopo che ti hanno fatto quella multa, ti hanno sequestrato la roba, ti hai preso questa omologata, perché stanno continuando a rompere. Esatto. No, dopo che mi hanno preso quello lì, non ne avevo qua. Lo so. E praticamente loro ti diranno cosa devi fare. Se devo intervenire loro o meno, che cosa devi fare? Perché tu hai la passione da tanti anni e che non vuoi lasciarla questa passione. Perché devono romperti le scatole? Sì, infatti, io pure ho diritto. Loro si chiamano il tecnico e si cambiano le antenne. Perché se vengono quelli a controllarli, da voi sono affari detti. Ma infatti sono loro che sicuramente saranno in torto. Poi chi c'è antenna che rompi i cavi e che magari mettendo più una di queste come la Game Master, cazzo, avessi risolto tutto la tariffa, perché no, queste qui non fanno tipo altro. Vai a Cavanira da ondi è, va. Oia, mica una cosa immane quella che abbiamo fatto. Ma come avete fatto a piazzarla? La scala esterna avete messo? Sono salito io al secondo piano e l'ho tirata su io per metterla dentro dove deve essere messa. Allucinante. Poi c'era anche Massimiliano e Claudio che si sono messi e ce l'hanno entrata nel tubo dove doveva entrare, capito? Però c'ero io sopra che la stavo tirando anche io. E tu hai tirato adesso e loro hanno centrato per entrare, no? Un macello e se no non me l'avrei messa l'antenna, la stavo costruendo per quello la quella canna da pesca, capito, solo che è un macello e ci ho ripensato, dovrei avere tutto il cavo in campagna. montagna, bobina compresa. Ecco che volta va a fare. Al limite, invece di metterla a peso, te la lasci dentro casa, tanto tu hai detto che va bene lo stesso. Qua che è lunga, è come l'antenna tua, come fai? Quello è vero, casino. Io un modo per mettercela non ce l'hai, un modo per attaccarla al palo che c'è già. Qua è un macello. Non è un macello, basta che tu vedi due staffe distanziate e l'attacchi al palo che c'è già e basta, fatelo io e te la puoi andare sul palo. Metti queste staffe distanziate con non ce ne presenti come so che palo palo. E tu cosa fai, Rubiccione? O l'autoscala ti prendi? Meglio mi arrivi due tu boss. No, perché ti sto ascoltando, ti sembra molto facile mettere due staffe lì e attaccare l'antenna, il gioco è fatto. Ci ho studiato una settimana prima di montare quell'antenna, perché qualcuno gli ha detto che non si poteva montare. Figurati tu, c'è una cosa da giocare quella. Manco il vigile del fuoco te ne piazza né di antenna. Non ci puoi attaccare niente lì, no, che ne cade tutto, che è il muro di Duffu. Cosa staffe? Quell'antenna vuole tolta, come è stata messa, legata da sopra, sfilata, abbassata con la corda, e messa un'altra antenna. Non è che ci vuole lo studio dell'ingegnere per poter fare il lavoro. Si è messa l'antenna uguale alla tua, ma vuole fatto però il lavoro. Ci vogliono fatti, non parole. Come diceva qualcuno, capito? Per dar di chi vi desivolti, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Io sono passato, ho fatto due foto, ho studiato bene il sistema, lui una staffa ce l'aveva già e il problema è risolto. Per toglierla bisogna fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per metterla. Uno giù, uno sopra con la corda, tirare e poi piano piano abbassarla. E si mette un'antenna senza radiarsi. Ma altre antenne lì non se ne possono attaccare a quella, sono i gaggi d'uto. Guarda, lì sarebbe stato l'ideale, perché anche leggero, la Game Master, sarebbe stato l'ideale. Ho capito, sarebbe stato ideale, ma l'antenna quella ha comprato una talina. Se comprava la Mantova ci avrei messo la Mantova, se comprava la Game Master ci avrei messo la Game Master. Qualsiasi antenna io lì ci metto, non ne ho problemi, però bisogna stare molto molto attenti, perché il lavoro che è stato fatto è da scimmie, capito? C'era gente che stava guardando, faceva fotografie, chissà dove sono andate a finire quelle foto. Da scimmie, perché lavorare nell'avanzare della finestra per entrare un'antenna in un altro, in un'altra staffa non è gioco da ragazzi. E non vi do. Beh, vabbè. Stai ambientando una mia corvetta a 120 orari, perché il giorno stesso l'ha detto che era 120 km orari. Sì, ma tu eri in piano, però lì bisogna fare le scimmie, bisogna arrampicarsi alla facciata, hai capito? Proprio nel vero senso della parola, eravamo arrampicati alla facciata. Se a te sei in piano, riferrata l'antenna la piatti lo stesso anche se c'è vento, ma lì a me il vento non me ne dà fastidio, lì è come ancorare l'antenna che bisognava studiare, hai capito? Quindi, no, beh, comunque, quando decidi Natali che quella la vuoi togliere, o te la costruisci una Game Master, che è una stronzata a fare quell'antenna, e tu ci sei capace, c'hai passione, te la costruisci, ci organizziamo, si lega, si sfila, capito? Si sfila prima con la scala, appoggiata al muro, come abbiamo fatto, si tira su, già non è così pesante, legata e si abbassa e poi si mette la Game Master lì. E allora penso che i problemi tuoi siano risolti. Vediamo. Periodo bello ci vuole per fare i lavori, non è vero. Io ho il parco antenne che si sta distruggendo e non ho né voglia e né nulla per salire, abbassare, fare. Adesso vediamo con Andrea, ci stiamo organizzando per le direttive, per tutto il resto, capito? Però bisogna aspettare il tempo bello. Adesso domani c'è raffiche di vento, controllati l'antenna già. se funziona bene col vento. Domani sono raffiche di vento 32-37 km orari, quindi saranno intorno ai 7-3-21 e un 15-20 nodi, e sta arrivando il tempo brutto di nuovo, così fai la, come si dice, le prove tecniche di rivento già. Vieni a fidarti con l'antenna, Claudio, quando c'è tempo, aiuto. Che quella lì mi ha già detto cosa, come mi avete lasciato quella roba lì, sono saliti a controllare. Già, io sono, c'ho la furgonetta che la stanno usando in un altro cantiere. Io che sono a piedi, perché mia figlia sta usando l'altra macchina. Adesso vediamo se per fine settimana, domani sabato, vediamo sabato, domenica mattina se riesco a passare a portarmela via con la roba. Così la metto qua in mansarda e inizio a dargli un'occhiata. E dille che non è meglio, che fa carità, già so poco pignoli. Che... No, ha detto di portare giù via la scala, che praticamente se arrivano là con roba del genere li do adito avanti in casa con la scala, capito? Mi portano via da lì, e anche tutta la roba l'altra parte che l'ho appoggiata solo, che le ha detto dare perché non c'era la macchina, devo essere allora a portare via un amico. Ah vabbè, no, non c'è problema, allora quando è porti via anche la scala. No, non ha fatto studio, non era tranquillo. Ha detto che è stato, che era un bel lavoro, che l'hanno controllato, è un bel lavoro. Vabbè, nessuno può dire il contrario, pulito, ordinato, senza... Ci lascio, vediamo già se... Se c'ho la macchina ci vediamo, dai, per fine settimana. Riprendi Natali che mi allontano un attimo, dai, già rientro subito. Natali, no. Buia, dimmi. Ti sei assentato, ti hanno rilanciato Claudio, ho detto che sei lontano un attimo, Claudio, per prendere. No, ma io ho risposto, sei tu che non mi hai sentito. Ma sei lui che ha risposto. Ma non ho sentito nulla, adesso che ho parlato ti ho sentito, ma quando ti ho chiamato no? Detto che ho risposto, evidentemente non mi hai sentito tu. Oh, non è entrata in funzione la cosa, perché questo fa un secondo di ritardo quando schiacci la portante. Quello può essere. Sentire ci sono a due passi la parete, come facciamo a sentirmi? Il volume è alto, ti ho sentito. No, non è questo che ti ho sentito, non sei proprio uscito. Probabilmente hai premuto male la portante, non lo so. Evidentemente sì, perché prima devo schiacciare e poi parlare, se no non ti fa uscire, ti taglia la lingua. Quello lì per i cerami intrusi, quando parlano troppo. Sì, proprio per quello, per i cerami intrusi, ti taglia la lingua questo. Che successo? Bene, adesso sta andando benissimo. Sta andando benissimo questo apparecchio. Prova a andare in FM a vedere se ti sento bene adesso. Cosa? Fai un secondino in FM e poi ripassiamo qua. Non ho capito, no, cosa hai detto. Fai questo. Vai un attimino in FM per vedere come esce. Ah, ok. Claudio, ci sei? Tutto a posto, tutto ok. E solo che stasera deve essere la gente che non ha voglia di entrare. Oggi è venerdì, se ne vanno tutti quanti in tournée. E può anche essere che se ne vadano in tournée. E allora vanno a cantare, anche Luca adesso poco fa eravamo in Piemonte, mentre sto uscendo, vado nei cinesi e poi vado dove vado sempre a cantare, dove c'è karaoke. Se stanno bene le persone vanno in giro. Io già ero girellone prima, ma adesso è già mozzo. Per forza, se c'è quei dolori lì come fai, lui? Lo fate, no? Ma sai quanto mi piace, già lo sai, già te lo ricordi che andavamo anche da signor Enrico a cantare quando c'era il karaoke, che era lì sul Gourmai. Gourmai? Il cameriere Gourmai, che come finivi l'ha detto subito, desidera qualche altra cosa? Se no che ti mandava, l'ho preso, se non prendevi da bene ti diceva che te ne potevi andare. e al suo, il suo mestiere è quello. Quando ci sono queste cose così, lo fanno apposta per vendere loro. Non possono tenere i tavoli occupati senza che uno consumi. Sì, basta andare piano, sai. E tutta la sera sto bevendo una birra, non mi ne fa più niente. Già facevamo così noi, di notte c'è un patrimonio. E se vuoi avere di niente. E quello che cantava era il ragazzo della nipote di Roberto Schiff, capito? E adesso si sono sposati, dai, c'hanno anche figli. Zanca. Anche Giulio deve essere andato al karaoke, deve essere andato. E allora Giulio sta dalla faccia al vita. Adesso che è in pensione, ha detto che gli piace la bella vita. Il mondo di notte. Che esce di notte come il pipistrello. Come uscivamo noi di notte, te lo ricordi? Cazzo, roba di notte siamo passati. Giro. Giraviti siamo umani. Luca ne ha baciato. Sbagliato, come mai? Chi c'è, chi c'è? Il mio è in orizzontale. Con Crado, a Ciambella e Drumito. E anche lui era in orizzontale quando ero in orizzontale io. Ma come me ne alzo io anche lui? E anche di Brisi. Ah, la coppia di Fabrizi ha fatto un uovo. Ah, vero? Sai una cosa, che ci sono in vendita su Facebook, stanno vendendo timbranos, bengalini e canarini, quelli col ciuffo, quelli che sono arrivati da Cagliari. Ma li stanno vendendo? Li sta vendendo quello che mi ha venduto le gabbie. C'è il timbranos come il mio, uguale identico, non so forse sia maschio o femmina. Fatiglielo a vedere. Io c'ho il maschio timbrato. E io c'ho la femmina, aspetta un attimino che lo contatto a vedere se lo trovo. Avanti il vecchio, K. Qui la stazione Alfa 1 che ti saluta, dai. Ciao Nicola, buonasera. Ho capito che sei col portatile. Così senti questa voce? Detto che ho capito che sei col portatile. E arrivi basso basso. Qua. E siamo vicini. Cosa ti volevo dire? C'è Gianni Doppiuru qua. In ascolto un attimo. Già dovrebbe rientrare anche Claudio. Ok. Quindi a te Natali tu lo prenderesti se femmina? Oh Natali, attenzione, lupo grigio, sì, buonasera. E io ti dicevo lupo grigio, mi hai sentito, buonasera. Doppio uno da questa parte. Sì, addirittura non mi senti. Doppio room. Si è spostato dallo 0 al 9 di colpo, si vede che stai camminando, che c'è questo in bici. Si rompe via adesso, ecco qui, accanto al punto, ti affaccio, ti comprendi molto bene adesso, dai. Ti ascolto bene da Viale Trieste, senza ombra di dubbio. Guarda, io adesso entro in Viale Trento, perché Viale Trento è più alto di Viale Trieste. Quindi in linea teorica dovresti sentirmi meglio, capito? Adesso sì, adesso ti sento con quasi lo stesso segnale di Viale Trieste, ma da Viale Trieste ti sento ancora più forte. Sei non pescato in Viale Trieste e mi arrivi 9. Oh capito, poi è strano perché qui ripeto, da dove sono adesso io vedi la Cedosa, vedo i grattacieli di Santa Maria di Pisa. Praticamente buona parte della città. Anni passa in FM per cortesia. Capa, un pomeriggio passiamo in FM. Ricevuto, eccomi. Ecco qua, siamo di nuovo in aereo. Stasera non ho voglia di entrare nessuno. Ma io stasera sono senza voce, proprio ieri infatti non ho modulato, perché proprio non avevo voce, proprio zero, mi sono distinto di questi che ha chiesto un attimino a modulare capito. Come mai? Si è influenzato? No, non lo so, è proprio un'arma uccellina terribile. Eppure mica sono salito sopra il terrazzo, insomma, era per capita, capita. Ma questo amico Alfa 1, QTH molto approssimativo, quale sarebbe, capito? No, cosa ti detta? L'aria è sempre vicino, sempre vicino. Ciao. Che succede stasera, capito? Ciao, hai fatto qualcuno a salutarmi, avanti. Ciao, Gianni, ciao, pomeriggio, se mi stai ascoltando, ma vengo da Ottava. No, stavo ascolto già, mi sto per salutarti, che sto facendo un lavoretto, mi permette. Sto un po' rotto, Ottava, stai arrivando, pomeriggio, Ok, avanti. Allora, però ho capito male. Ok, riprendo Gianni, non mi ascolto, sì, avanti. Ciao marito, ciao, mi hai sentito con la lettera anche a te, buonasera. Avanti Giulio, la legge di bocca c'è il re. Sì, così sì, mi sto riposando, sono stanco. Ciao già, ciao Nicola e ciao Marino. Riprendi già. Ti abbiamo stuzzicato. Allora, adesso lo facciamo entrare. Abbiamo detto che andavi, che ieri fosse la venerdì, te ne sei andato a cantare, al karaoke, eccetera, eccetera. Oggi te non ha picchito. A cantare io, sono più suonato di una campana, figurati un po' se vuoi la cantare. A careggiare. Cosa vuoi fare? Non è che uno deve essere intonato per cantare, no? Per il karaoke. È per divertirsi che vai. Cosa ti mi ha fatto ti sfughi. A far vedere la gente. Vai. E se uno va a cantare deve avere almeno un po' di intonazione. Ma io sono solatissimo, dunque. Se avessi avuto la voce che ha mio fratello, o miei fratelli, oppure mia figlia, o miei nipoti, allora sì. Ma io sono tutto intonato. Perché la voce fa educata, non è che uno va a cantare così, no. Uno se va a cantare deve anche educarla la voce. Per dire, Emanuela, mia figlia è andata a scuola di canto. Mia figlia è il primo marito, si può immaginare. Cioè, il primo soprano, volevo dire, ho dato il primo soprano, si può immaginare. Mio fratello canta da 20 anni come minimo. L'altro mio fratello, vabbè, adesso quello lì sta un po' male, dunque non canta più. Ma cantava bene, ha fatto anche concorsi, eccetera. Tutti gli anni lo chiamava la vita Pavone, lo chiamava, se mandava la lettera per partecipare sempre al suo programma. E poi se sta in casa non c'è più andato. I miei nipoti cantano tutti anzi. Solo io sono suonato. La pecora nera. La carità, raga. Che non piace, non mi piace nemmeno io di quanto sono suonato, per carità. E pensare ragazzi, perché come voce, se tu ti senti, se tu senti mio fratello al telefono o mia fratella al telefono, mi puoi cambiare per me, perché abbiamo la stessa voce, solo che io sono suonato quando canto e loro sono tutti intonatissimi. Probabilmente loro l'hanno educata la voce, hanno preso quella strada lì e sono riusciti a educarla come si deve, perché uno non è che nasce con la voce educata, ci sono anche quelli che ce l'hanno naturale, però tipo quei baritoni eccetera eccetera, c'era una voce già grossa di per sé. Avanti un pomeriggio che è entrato Giulio per salutarlo. Sì, ciao Giulio, come va, tutto bene? Senti, ma sono sento come se avessi i microfoni troppo amplificati, o è un'impressione mia, cambio? Non lo so, io troppo amplificato so. Vabbè, comunque l'amico non è l'unico che essere stonato, guarda, una campana canta molto meglio di me, poi con questa voce con stasera sto proprio messo bene, cambio. Ehi, avanti per dire, a Natale, a Capodanno, ci riuniamo tutti con gli amici nella vita di questo amico mio, cantiamo, mangiamo, facciamo, arrostiamo e poi cantiamo al karaoke. Come ce l'hai la voce, ce l'hai? Non interessa a te che ti diverti. Naturalmente sì, certo. Mi raccomando, tenetemi in considerazione se fate qualche meeting. stasera. Già. Va bene, non c'è problema. Non c'è problema. Quando organizziamo qualche cosa ti facciamo sapere. Bene, bene, bene, bene. Mamma mia, c'è un po' di pepino stasera, eh? Tu sei a piedi, sei tutto messo male, capo, e sei fuori. Guarda, io dentro casa, non ti resti. Io la mattina alle 8 precise, puntuale, devo essere dietro la Conad e devo essere il primo a entrare. Infatti mi prendono tutti in giro per questo campo. Perché? Ognuno ha le sue abitudini, le sue cose. Poi tante volte anche il modo di vivere che uno ha, tu sei, hai vissuto in una caserma, quindi c'hai delle regole, delle cose che magari rispetti anche essendo in pensione, capito? Avanti giù. Già. Adesso ho preparato un materiale per costruirmi di nuovo la radio galena, Gianni. Ce l'avevo tanti anni fa, l'avevo fatta, adesso ho preparato il materiale per farmela di nuovo. E così questa volta mi metto anche l'amplificatore. E vabbè, dai. Gli occhi da ragazzi. Anche se non c'è più la M. Sì, ci sono stazioni straniere, che altro. Ma italiane, stazioni italiane, la M non ce ne sono più. Nemmeno la RAI trasmette più in AM, tutto è FM adesso. Scusate se interrompo, ma magari sulle onde lunghe c'è ancora qualcosa, capito? Hai capito Giulio, ha detto che sulle onde lunghe c'è qualcosa ancora, in un pomeriggio. Quella c'è, non ho capito già. Che sulle onde lunghe c'è ancora qualcosa, ha detto un pomeriggio. Sempre però roba straniera, non roba italiana, ormai in Italia la modulazione d'ambizia non esiste più, tranne per quando ci sono quei programmi per i non vedenti che sulle onde medie spiegano il film. Ah, ecco. Hai copiato la lettera un pomeriggio? Sì, ho sentito. Lo so, ma una onda lunga cosa te ne fai? No, lo faccio in AM, lo faccio. E poi ne faccio uno in FM. Ne faccio così, proviamo. Senza batterie, senza niente, mi già. Lo sai, la valena è senza alimentazione, senza corrente. Dunque funziona direttamente con le onde elettromagnetiche. Non ho presente, non l'ho mai vista, non so come si faccia, non l'ho mai vista, la verità. Se mi ha sentito parlare, ma non l'ho mai vista in costruzione oppure provata, eccetera. Se mi permettete, che anche si può fare anche con un semplice tiro dal germanio. Dovrebbe funzionare, io una volta nel scuole medio l'ho fatto. Antenna lunga, il problema è la sintonizzazione, se non sbaglio. Pensa che una volta ne ho fatto una allo stadio dei Pini, già, e ho attaccato alla rete che c'è lì, tutto attorno, ho attaccato la massa lì, ho attaccato l'antenna, tutto per scommessa, non ci credeva la gente. Ecco, state zitti, si è lezioni perché ci vuole silenzio, no? Perché si ascolta in cuffia ad alta impedenza, si ascolta. E dunque, se no panini imbottiti, già ne ho visto poco sui panini imbottiti, quando arrivava qualcuno in bottega, no? Qualche amico, eccetera. E facciamo vedere su un pezzo di legno, l'ho messo il circuitino, tanto te, ti piace questa cosa? E quello è questo fuori. Va. Buttalo via, aspetta che te lo faccio sentire mentre lo butto via. Allora che non sono da quello che ho fatto la radio. E tu cosa commetti? Io il panino lo commettiamo. Se vinco io lo paghi tu, se perdo io lo pago io. E tu non ti mangi nemmeno qualche panino, ho visto lì la signora Lina o già tutti quelli che venivano scoprire quei panini. Signori, scusate se interrompo, io vi saluto perché c'è freddino e comincio ad avere qualche piccolo brivido di freddo. Speriamo che non mi becco la febbre, capito? Ehi, dai, vai a coprirti, vai. Ci sentiamo, magari può dormire a casa, se ti sentiamo, non c'è problema. Avanti. Ok, ciao. Ciao Lupo Video. Alle prossime allora, dai, ci sentiamo. Che mi sa quanto? Sì. Tutta la cosa di non so che ho sfruttato in quel modo. Vabbè, comunque, erano altri tempi, dai. Ehi, ehi, ognuno si arrangia come può, Giulio. No, perché è curiosivo, no? Perché diciamo, come fa questa cosa a suonare se non c'è batteria, se non c'è corrente elettrica? Come fa? Se te lo sto dicendo, te lo sto spiegando, vi dicevo. Funziona direttamente con le onde elettromagnetiche. Non è possibile, non c'è qualche trucco. Ma quale trucco c'è l'essere? Lo senti, te prendilo tu in mano, che trucco c'è? Per dire, no, mettiti la cuffia e ascolta. Naturalmente le stazioni le prendiamo per la tre stazioni, non di più, perché non è che sia così, capito già. Poi quando avevamo, quando sono andato a casa lo mettevo anche sotto l'amplificatore e lo sentivo come una radio normale, tranquillo e pacifico, e quello allora sì. Allora era l'amplificatore però è diventato, non la radio. Ho capito. Magari c'è una cosa facile per sentirti la radio in bottega, no, ma che bene, dai. Ma ci attaccate una colonnina, qualche cosa. Una cuffia ad altissima impedenza, che me l'aveva regalata Emanuele Buonanima, me l'aveva regalata lui, una cuffia da 2000 ohm, però funziona anche se ha una buona antenna. Funziona anche con un auricolare mettendoci però un trasformatore di impedenza, praticamente un trasformatore di uscita di radio, oppure un trasformatore anche di alimentazione che fa da trasformatore di uscita in parallelo con l'auricolare, funziona lo stesso. Allora non senti l'auricolare, perché si trasforma in alta impedenza, si trasforma, ma io lo avevo, ce l'ho ancora le cuffie di quelle antiche, antichissime, ad alta impedenza, alle piezoelettriche. Capito. Già interessa. Un attimo che c'è uno che sta prendendo uccelli, voglio vedere, ho visto un uccello che mi interessa, aspetta un attimo. No, perché se è una femmina, se è un maschio mi interessa a me di quelli che sta prendendo. Che ce n'è uno della razza mia che praticamente purtroppo pulendoli la gabbia l'ho schiacciata senza volerlo. Se ne è sceso giù, stavo chiudendo il cassetto. Sentivo duro, pensavo che non chiudesse, l'ho spinto di più, c'era l'uccello in mezzo. Cos'è che hai schiacciato? Un pecorino? No, un uccellino, un canarino. E c'è questo qua che sfintero che sta prendendo la stessa razza. E se è maschio lo prendo perché non ce l'ho più, quindi devo rifare la cucca. Ho capito, sì. Io quando avevo trovato una volta, me ne è entrato in falegnameria, me ne è entrato un uccellino, proprio un canarino. Era piccolino, non riusciva a volare bene, volava, faceva qualche salto così, e sono riuscito a prenderlo, e l'ho portato a casa, l'ho portato. Questo canarino l'ho adottato e è diventato, naturalmente, adulto, e poi siccome era la femmina questo canarino, perché faceva le uova, però non erano fecondate, dunque non poteva nascere l'uccellino. E avevo comprato da Cardinale, se ricorderai di Cardinale, no? Il negozio di uccelli che c'era lì al corso, prima era di a Roma, poi al corso, in quella stretta, di fronte a dove abitava la Salvezza. Ho comprato il maschio, secondo lui mi ha dato il maschio, mi ha dato per questo uccellino. Beh, lo sai che l'hanno ammazzato. Cioè, questo è l'uccello femmina, l'ha ammazzato l'uccello maschio. Sempre che è maschio, io non lo so, io non lo concevo. e vedrai che fanno la coppia e seconda e nascono anche gli uccellini. E invece niente, le uova le faceva sempre, però non erano fecondate e dunque non nasceva niente. Sì, mi ricordo da quando ce l'avevo in via Roma il negozio, c'aveva un pappagallo che si chiamava Loretto, quando dicevi Loretto, lui Loretto poveretto diceva. E praticamente cosa gli ha fatto? Gli ha bucato la testa? Non lo so, io è stato un po' il tempo così, quanto c'è stato, una decina di giorni, forse 12, non lo so, di preciso, dentro la gabbia, c'è due. Un bel giorno, tac, guardo se c'era il canarino stesso, ho detto, via, è morto. E poi mi hanno detto, no, non l'hanno ammazzato, sicuramente erano, se sono messicciati e hanno ammazzato. Purtroppo quando io non me ne intendo. E da giorno non ho più preso niente, è rimasto quello e basta. Siccome c'era mia figlia che era piccolino allora, no? E ho tenuto anni questo canarino, beh tu non ci crederai, con la porta della cucina aperta a casa, no? Aperta, la porta finita. Aprivo la rabbia, il canarino usciva, volava all'interno di casa, mi si metteva sulle spalle, sulla testa, che a me che ai miei. E non se ne andava, non se n'era mai andato. Allora era talmente abituato a rimanere lì, no, questo uccellino. E una bella domenica, ma siccome li mettevo la notte, e noi ci correvamo un po' tardi, allora gli mettevo un qualcosa di per fare buio, no? Quello che l'uccello potesse riposare, dormire. E mi sono alzato la mattina, guarda, adesso vado a pulire la gabbia presto presto, così è già fatto un primo lavoro per lui. Però ed era secchito. Ma questo dopo 3 o 4 anni come minimo che ce l'avevo questo uccellino. E ho capito, perché ci sono delle regole da seguire. Quando tu hai una coppia di uccelli, non si mettono mai insieme all'inizio, si mettono solo quando il maschio canta, sono in amore in primavera. Si parte da marzo in poi, sino ad arrivare a fine estate. E si mettono insieme, dopodiché si separano di nuovo, perché se no il maschio vuole farsi la femmina non vuole e si beccano, gli becca la testa e gli fa il buco la mano. Ho capito, vabbè, comunque. E poi quando è morto questo uccellino, gli ho dovuto fare la pena, gli ho dovuto fare, perché c'era mia figlia che piangeva, in via la cosa, e poco non era affezionata questo uccellino. E poi alla fine, adesso le facciamo un funerale, facciamo l'uccellino, e allora lì vicino a casa, c'era, oggi è tutto costruito anche lì, c'era un campo di bucce, c'era, no? E sono andato lì in quel campo, ho fatto un fosso per terra e l'ho messo dentro, e ho messo la croce. E lì la ragazza si era rasserenata e non ha pianto più. Prima piangeva perché il cerino era morto. Era piccolina, però lei era piccolina, cosa avrà avuto? Avrà avuto, se no, 4 anni, 5 anni, forse nemmeno. I bambini sono così. E quello che era morto, quello che ti ha venduto il marito di Anonima, come si chiamava, cardinale, quello che ti aveva venuto cardinale, oppure era morto quello che avevi tu? No, quello l'ho ammazzato sicuramente, e quello che ho avuto trovato, è morto quello che ha ammazzato cardinale, è morto, ma quello dopo una quindicina di giorni, non di più, è morto, e allora non lo posso mettere, e è un'altra persona questa. Questo uccellino è rimasto sempre solo nella prova e è campato almeno troppo di 3 o 4 anni tranquillamente dentro la gabbia. Io tante volte la lasciavo aperta, l'uccellino usciva, si faceva il giretto, si faceva, poi il mare si posava sulla brada di cucina o sui pesi di cucina, si posava e tu dovevi vedere quanto era curiosa questa cosa. Con la porta spalancata non se ne andava, non se ne è mai andata. Alla fine è morto quello, Manuela era affezionata a questo uccellino, essendo bambina, piccolina, per me era una grande cosa. Allora, per la terra io gli ho costruito la mela, con due pezzi di completato, gli ho fatto la barra, gli ho fatto. E il mondo se l'ho sotterrato. E gli ho messo la croce anche. Ecco, e lì allora si era serenata, tranquilla. Dal giorno io non mai più, l'unica volta che avevo un animale a casa, ma mai più, l'ho preso e non ne prenderò mai più. Sempre da Apple, dai un casino, dico da Apple. Oh Giulio, ehi, mi ha chiamato Tino, che sta cercando di entrare, che se lo lasciamo bianco, dai. Aspettiamo che entri. Certo, così impara. Buonasera, ho detto, ma l'ho chiamato per altre cose, Giulio, mamma, per altre cose. Ho detto, ma l'ho lasciato un attimino di bianco, non riesco a entrare. È Tino, non è Marino, è Tino, Gianni, siamo Tino. Io ho detto Tino, non Marino, sei tu che hai capito male. Ah, boh, avevo capito Marino io, appunto. Vabbè, avanti Tino. Eia, buonasera, buonasera. Niente, dai, io era giusto per avvisare di lasciare un pochino di bianco, se cioè magari voleva entrare qualcuno, perché ero più di mezz'ora in cerca, ma non sono stato lì a né a sorvolare né niente, ma mi dovevo dire cosa a Gianni, ho approfittato a chiamarlo. Ok, va bene, sì, non c'è problema. Va bene, sì, mezz'ora, dai, vedo così come lo tiro per questa. Che mi ha invogliato Gianni, che stava parlando con Natalino, ma io non avevo nessuna intenzione di parlare stasera, non invogliarmi poche parole. Stavo portando avanti l'antenna, stavo portando avanti, e dunque, ecco, ho messo la faccia, non avevo più gara. Eia, no, già ho sentito, ero in radio, ero all'ascolto, stavo cercando altro sul PC, poi vi siete messi a parlare di uccelli e quant'altro. Va bene, avanti Gianni, dai. Sempre volanti però, senza pensare al mare. Sì, vabbè, quello che è. Sì, no, diglielo che oggi si muore anche quello. Con tutte le altre segnali che mi sono in giro, per forza, poi dicono non nascono più bambini, per forza, con tutti i miei che ci sono in giro, con tutte le verifiche, come fanno a nascere bambini? E allora, noia, va bene, mi disturba questo eco? No, non si sente l'elicottero, soprattutto nel finale, quando lo stai parlando. E chi è questo qua? Guarda che stai innescando. Abbassa il fischietto, chi era quello che stai innescando? È Eugenio, ci arriva basso basso. No, ciao Eugenio, ti sento basso basso, no, è un altro molto più forte. Non so che sia Porto Torres, ti ascolto basso ma ti ascolto. Non so se ti ascolta Giulio, avanti Giulio. Lo sento che sta modulando, però non capisco quello che sta dicendo. Non lo sento. Mettiti in una posizione buona, Eugenio, però non ti sento. Oppure vai a casa e trasmetti da casa. Va bene, Eugenio, dai, chiama a casa, chiama. Gianni, avanti. Ciao Eugenio, mi hai sentito, non si può dire, ma ti auguro di farti sentire meglio dopo. Ciao Eugenio, comunque, e sentiamo dopo magari quando sei più avanti, e al porto è un po' un casino a sentire. Ma se sei stato sulla nave, allora lo sentiamo bene. Bene, bene, anche io sto cercando un uccello, femmina per me, Gianni, femminuccia. Messaggio tutti. Eia, vabbè. Sono ascoltato, pensavo che fosse una cosa nuova, invece era arretrata. E poi ti stavo chiamando anche, ti ho chiamato due volte, prima con WhatsApp e poi con normale. E poi il telefono era qua, non ha squillato, e se avvi che non si avvia il vibratore, non sento più. detto che sei sempre basso, aumenta, sennò qua non arrivi. Oh, non lo so, lì quando ti sto arrivando così liscio liscio, guarda un po' lo smitter e narami due. Ah, vabbè, adesso hai migliorato un pochino, però sei sempre basso. Io? Periferia, dai, latte dolce, prima delta. Aspetta, guarda se ha migliorato ora. Eugenio, guarda se ha migliorato un attimino. Scappa, dai, va bene. Era giusto per sapere, dai. Giusto così, vedi un po'. Ho abbassato una tacchetta. Vabbè, se diminuisco, allora tolgo tutto. Hola. Ti ha fatto anche arrivare Eugenio. Non mi senti? No, ha detto che è in movimento. Ah, e adesso ho fatto il volume, ce l'avevo bassa. Avanti Eugenio, avanti, a casa sei andato. Ah, ho capito, sei in macchina qui. È sotto la veranda di casa, esci da sotto, se non esci. Ciao, ciao. Giulio. Ok, ciao, sì, ciao. Stiamo parlando da te, Come a tutti sì. Vabbè, dai, non fa niente. Così è. Avanti già, mi prendi, dai. Non so, guardaglio, non lo voglio stasera. Aspetta, Giulio, ha cambiato la modulazione? Sì, è un pochino. Ma va bene lo stesso, va benissimo. No, è un problema. Tino. Nara. La cosa che mi hai chiesto, la puoi trovare sulla strada di Alghero, sicuramente, ce li hanno. Aspetta che abbasso, aspetta. Tac. Eccoli qua. Volevo chiedere se ritrovo qua l'uscita per andare a cosa, la salita della strada 21 di Pedaneta. Non ti ho capito, perché c'è qualche negozio? Sì, quella che la rotatoria che va una al mercato, l'altra invece va allo spin di Viale Porto Torres. Non di Viale Porto Torres, scusami, di Pedaneta. E quanto mi fa dice, per parlare di business? Lì devo chiedere però. C'è qualcuno che vuole entrare? Avanti. No, Eia, sì, dove c'è il business? Sotto. Sì, ho capito, a fianco alla lavanda. Ho capito, quattro zampette si chiama. No, non so neanche se ne hanno, eh. No, il più forte è quello che ti sto dicendo io. Tu continui praticamente, fai la rotatoria e trovi il video per andare al Ghero. Esci da lì e appena esci, appena esci dalla strada, te lo trovi sulla destra, subito devi girare, te lo trovi subito sulla destra. Prima di arrivare a Conforama, ho capito. Quello lì è molto attrezzato, di tutto e di più, già. Acquari, di tutto e di più. Sì, andrò lì. No, perché ne avevo quattro in una gabbia, no? Involontariamente abbiamo lasciato uno sportellino mezzo, come si dice, mezzo aperto. Due sono fuggiti e due sono rimasti in gabbia. Poi, dopo un paio di giorni è morta la femmina e questo è da solo adesso, quindi. Ho provato anche a farlo uscire dalla sua gabbia. Ogni tanto si faceva un giro, poi quando era affamato gli metteva la ciotolina, si metteva nella ciotolina e niente, dai, e poi lo metteva in gabbia. La sera pezzavata la gabbia adesso. Ma cosa si che torni un momentino, perché se sento il richiamo di quello, se tu ti metti fuori, guarda si che torni, non ricavere, è scappato quello che parla addirittura. Era che ha detto che si è messo a piangere. L'ha regalato il genero che c'è l'allevamento di pappagalli che parla. E lo stava, gli stava insegnando, era allenato da nido. Da nido proprio con le penne appena uscite. Stava insegnando a parlare tutto quanto, stava cominciando a parlare. E un giorno cucinando ha aperto la finestra volontariamente e lo lasciava sempre libero in casa. Ha aperto la finestra e si è curato. Capita. No, quelli, vabbè, adesso sono già da un po', credo che siano anche morti, credo, perché non sono abituati a queste temperature. No, poi non si sanno cercare da mangiare, quando vivono in gabbia, se tu li liberi vicino a morte, la stessa cosa. Loro si sanno cercare da mangiare. Non è scappato uno che valeva anche un po' di soldi, mi è scappato e Kaiser l'ha perseguitato e l'ha fatto uscire dalla porta alla finestra che c'è interrata, che c'è nella sala. È volato, guardato bene dove andava, sono andato a cercarlo e lo sentivo cantare ma non vedevo dove era. A un certo punto il vigile era sul terrazzo del primo piano, è andato sulla parabola e si è messo a cantare, ma c'ha un capo, quello lì avvicinato. È un uccello che ha 5 colori praticamente e può partecipare alle gare. Infatti stavo per farlo partecipare qui, ho detto devo pagare troppe cose, iscrizione, ISO, chitarra, non ne ha più. E fatto sta che alla fine ho provato, ho allungato il corpo perché la persona che dove si è messo lui non c'erano i padroni della casa. Quindi ho preso il corpo da casa, con la rete, ho cercato di arrivarci, invece non ci arrivavo, gli avevamo attaccato un bastone con quello dell'agenzia funebre che c'è giù, gli avevamo attaccato un bastone, abbiamo cercato di prendere e se ne è volato. Alla fine mi sono avveso e ho detto, vabbè, devo portare il cane giù, da. Ho preso, sono salito, ho preso il cane e lo sento cantare di nuovo. Ho guardato, non so dove era andato, all'entrata del portone, da una mano ci avevo il cane e con l'altra mano la giubilata. Ho capito. Vabbè, l'importante è che sia rientrata. Ascolta, devo mollare che devo andare a fare la luce adesso e poi devo preparare cosa. Sono entrato giusto per quel tempo. Giulio, dai, riprendi, che se no mi lascia Gianni da solo. Ti saluto, riprendi già, aspetta, saluti per loro via. Adesso che sono un furico, che c'è un'antenna nuova, non voglio più parlare di nessuno, non c'è più nessuno. Santiago sì, 7, cosa vuoi fare? Vabbè. È in Briaga, è una Jägermeister. Ma no, sì, a 7, 8, 9, sì, non si ferma. Ma stai scherzando? Va bene Gianni, er più va bene. No, perché è in Briaga, per quello. E allora, va. Adesso quando c'è un po' di tempo lo facciamo. Eia. Va bene già, dai, sto andando, ciao ciao. Ciao Tino, buona continuazione di serata, dai, avanti. Ok, ciao sì, ci sentiamo, dai. Con lo stesso segnale identico stava arrivando Tino o Gianni, con lo stesso segnale tuo, identico, preciso. Sì, addirittura. Linea d'aria sei più vicino a lui, sei proprio di fronte. Sì, sono di fronte già, ma io ho una collina da saltare, attenzione. Quindi teoricamente linea d'aria sei più aperto tu che io. Tino, ma mi parlo tu, quanti metri ne hai messo? Esci fuori dalla strada o no? No, assolutamente. Io devo saltare anche degli alberi che ho, quindi sono basso in confronto. Sì, ma era di anche in alto, quindi dovrebbe irradia bene lo stesso. Poi guardate la lì. Basta con queste cose. Ma e quindi non lo crepo a Gianni? No, capiamo, mi sono lavorato due sull'altro, ma non si capisce l'uno e l'altro. E io quanto ti arrivo a te lì? Vabbè, questo è il brutto, non è che i segnali sono relativi. Nell'altro arrivi quasi 9.20. Ok, non tu lo stesso qui, mi sta arrivando 9.19, 9.18, per l'esattezza più o meno. Ho modulati e superi anche 9.20, 9.22, è una cosa così, dei picchi positivissimi, molto positivi. Va bene. Qua tu ne arrivi 9 più 30, sul più di più 30 giù. Ma con questo però Gianni, o anche con l'altro? No, dico a Giulio, non a te Tino, a Giulio sto dicendo, 9 più 30, sul più di più 30 ne arriva, col Galaxy, lo sto ascoltando, ed è giusto perché è giusto anche con gli altri appariti. Cappa, già lui ti arriva più forte, io invece vado soli. Prova! Prova, sono mezz'ora che sto parlando, guarda un po'. serata. Ciao, 9:30. Buon appetito. Appena appena piano. Basta. Avanti Giulio per il saluto. Ho già salutato, ho già salutato questa popolazione. Ciao a tutti. Mi hai sentito? Così così, dai. La radio non è perfetta perfetta, ma già riesco a capire. Abbassala appena appena giù. Abbassa giù appena appena, troppo alto di amplificazione. Ciao, che devo andare, ciao. Ok, ciao. No, ero troppo vicino al microfono, ero troppo vicino. È per quello, l'amplificazione sembra subito. Solo che ero troppo vicino. Vabbè, ciao, sì, ci sentiamo. Avanti già. E lo sai cos'è? Che tu sei molto spedito parlando, quindi magari la voce e ti strappa, capito? Invece se sei lontano non succede questa cosa. Perché infatti con questo si parla da lontano, ma siccome stavo guardando anche lo Smith ed ero vicinissimo, capito? Ed è per quello, però questo si parla da lontano, tutta la lunghezza del braccio, parlo sempre così, ma se mi avvicino allora il discorso è diverso, perché stavo guardando lo Smith e dunque avevo il microfono a 20 cm dalla bocca. Prove di forza. Ho detto prove di forza. Ciao Giulio, ciao Gianni, come stai Gianni? Non ce n'è più di queste prove, fra. Un tempo si facevano, ma per andare quando si arrivava a Badisi, tutte quelle zone lì, le notti io le passavo tutte in bianco e alle 7 di mattina terminavo di modulare sempre. Quanto modulavo prima, tutta la notte incidata. Sì, dillo a me, io... Lavorando nel carrello elevatore c'avevo l'antenna, c'avevo. E quando toccavano di turno a me, specialmente la notte e la sera, modulavo sempre. Ah, quindi Marco ti ha conosciuto col baracchino? E allora? Questa roba l'avevo detto. Mi era oggi a casa, siamo andati insieme anche a fare la spesa. E ogni tanto lo telefono, adesso sono parecchi giorni che non lo chiamo. E già mi vedeva sempre col baracchino lui. Oh, ieri notte mio figlio è venuto, papà, fuoco, fuoco. Cos'è successo, mamma? Hanno bruciato 3 macchine, mi dirà a casa. Mamma mia, pericolo. Vabbè. E lì da voi, vicino a voi c'è un casino, c'è qualcuno che gli piace bruciare le macchine. Avanti giù. Vicino a casa di Marco, non vicino a casa mia, io lo vedevo dalla finestra, ma era vicino a casa di Marco. Ecco, avanti giù. Ok, a quella gente rubando che ci sarebbe a tagliare le mani, avanti il collo, il video, così almeno non le fanno più di queste cose. Bastarde, e ogni tanto c'è sempre il pazzo che si diletta a fare gli spicchi alla gente. Ma comunque, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuoi che ti dica? Là? Il mondo è bello perché è vario. Vero fa. Poi c'è questa roba di esplosioni. Bel casino, cosa ci vuoi fare? Anche quelli dicono che ci vogliono i ladri, ci vogliono i pirumi, i pirupi e tutti. Piromani! O piromani, anche pilupi ho detto. E pirumi, non ci vogliono, queste persone qui non ci vogliono, bisogna proprio annullare. Però c'è una cosa, io do la colpa anche ai carabinieri, perché polizia e carabinieri, perché sanno, ogni volta le due le bruciano, le due. Quindi sanno che non hanno nessuno. Perché non fai mandare un controllo con le macchine borghesi o cose a mitigarli? Già lo vedo. Come va? Beh, lì sta Marco. Marco è che nuova, poverino, che l'hanno bruciato. E magari... come qualche errore, se la volevano bruciare qualche un altro, oppure però è già. Sì, Giulio. Io l'ho vista la mattina, sono andata a portare il cane. Ma lei sente al lavoro, ci ha portato il cane alle 6 e l'ho vista bruciata. Certo, a me mi aveva mandato tutte le foto, mi aveva mandato com'era la macchina, di Cristo Maria, poverino, dove, e poi dopo di mia, sempre riuscita da via. La stavo ancora pagando, non avevo finito ancora di pagare, adesso ho finito, ma non avevo ancora finito, quando l'ho bruciata non avevo finito di pagare, avevo ancora 3 o 4 ore. Sì, già lo so, ma lui, lo sapevo perché lavoravamo insieme. Siamo stati, io senza di lui ci sono stato poco, poi me ne sono andato in pensione. Sì. E l'avevo riconosciuta perché mi teneva il cappello del padre. Io ho conosciuto anche il padre, la madre, tutte le sorelle, i fratelli, tutti i gatti conosco. E praticamente mi teneva il cappello che si metteva il padre, lo teneva dietro, nel coso di dietro, nel sedile di dietro. L'ho visto, l'unica cosa che non si è bruciata è quello lì, è la Madonna che ci aveva, te ne immagini? Quel cappello non l'ho mai chiesto perché pensavo che era il suo, però non lo sapevo che era del padre, però lo vedevo sempre. Sì, il cappello quello lì è del padre, ce l'ha tenuto per ricordo, se lo portava sempre in mano. Avanti giù. Ok. Vabbè. Cosa dire? Boh, non so cosa dire. Stasera non sono in forma, non sono in forma a parlare. Gianni è in forma oggi, tutta la sera per delle negazioni, tutta la sera. Vero già. Ehi, vabbè, lo sai cos'è? Che adesso sto un po' meglio, sono stato tutta la notte, tutta l'ora l'ho passata. Mi sono addormentato stamattina, poi mio figlio mi ha svegliato alle 2 per questa cosa qua. Dopo mi sono svegliato alle 7 per preparare la colazione, prima di andare a scuola. E quindi non ho dormito nulla. E ho dormito un po' dopo, per adesso mi sono un po' rifucillato, quindi sto rivivendo la giornata adesso. Va. Fai bene, niente, così ti stanchi, almeno stanotte dormi meglio. Vabbè. Da quando la tenga nuova sta facendo ancora la mia. Ecco come è barroso, eh. Oh, i compromessi non me lo guidiamo, eh. Tanto giù è la stessa cosa, lì. Vabbè. Su sul tetto e ti mantieni l'antenna. Ma cosa meno, che quando si trocca devo fare giù là, problemi ci sono. E sì che mi tocco intanto perché me l'avete detto in due. Quello è di diritto già, toccare, è di diritto. Io, guarda, nel primo periodo che l'ho piazzata, quando ho cominciato col vento ho avuto un po' di paura, poi ho visto che ho superato quello più forte di tutti, è giocato, buon appuscio, non mi motivo più. Guarda che la fabbrica la dà per 160 km orari, quando mi mai fanno per 160 km orari? No, non è, io non l'ho mai visto. Oh, vabbè, non glielo ho mai misurato il chilometraggio, eh. 60 nodi già, 60 nodi e diventa 120. 120 km, 110, boh, non lo so di preciso. Così dice il meteorologo. Voi lo sapranno loro se corrisponde a verità questo discorso. Ma stai tranquillo, non si dronca. Sto dicendo che regge molto, ma molto bravamente, perché sono dei materiali particolari. Si è rotta, quella volta là si era rotta, perché è ancorata in punta e allora ha spinto al centro, ma se la lasci libera, allora da tutte le parti e non fa niente, tranquillo. Sempre l'antenna deve andare così, deve funzionare barra induccia, pure quando è ferma è barra induccia, non è che sia, perché è pesante come materiale, è uscita perché è molto alta, che non che sia pesante, ma è molto alta e quindi è uscita il materiale. Deve andare così, deve restare libera perché deve oscillare con l'antenna, è fatta apposta. Ok, certo che è fatta apposta. Tranquillo che non succede niente. Tranquillo, vedrai che non... Tu pensa, quello della canoccia da quanto tempo ce l'ha, questa canna da pesca, fissa. E non è più tirantata quella, no. E senza tirante, niente. E non è una, no. C'è anche quella tipo... ha tipo polcone. Eppure ho visto che regge. E allora, lui si è troncato perché non ha seguito le istruzioni. Se tu segui le istruzioni, quello che dice non deve troncarsi. È normale. Come va tirata fino a quando proprio tutto il cavo è bello in tira. L'antenna va sollevata piano piano, elemento per elemento, fino a quando arriva a coprire tutto il filo e poi mettere il morsetto. Se non lasci l'altro, il filo non fugge come deve fuggere. Nella posizione dell'innesto, li hai messi? I rinforzi li hai messi? No, li ho presi più stretti, Giulio, non li ho messi. Ho messo un bel po' di vulcanizzante, ma un bel po'. E in più il nastro sopra. E allora va bene lo stesso, non ti preoccupare. Va bene lo stesso, già, non c'è problema. Tranquillo. Perché le debole lì e basta. Quei 10 cm che entra dentro, hai visto come entra dentro? Una decina di centimetri più o meno ogni elemento, no? All'incirca. E il debole lì, però se è rinforzato non le fa niente. Quindi la dalla parte all'altra, però resiste tranquillamente. Vai, fa. Ma c'è la fascetta lì che si... lo so che c'è la fascetta, però essendo spaccata quella parte lì dove è fascettato, è lì il debole, lì è quel pezzo lì. E allora quando tu gli fai un rinforzo, ma se gli hai messo il nastro autoresingente va benissimo lo stesso, non c'è problema, non ce la fa ad aprirlo, capito? Ma poi c'è la spreco, l'abbiamo messo proprio un bel. In più il nastro sopra puoi stringerlo, il nastro me l'ho tirato sopra, è stato fatto un bel lavoro. Devo ringraziarmi che loro l'hanno fatto tutto loro perché io non potevo fare un cavolo, non posso né chinarmi, né muovermi, né nulla. Devo dire, hanno fatto un bel lavoro. L'unica cosa che c'è da fare adesso è appena appena addrizzare il palo perché è troppo tirato da una parte, è un po' storto, ma è pignoleria mia, Ehi, vabbè, quello non è niente, cosa te ne frega. Va bene, va bene. Già lo so che hanno fatto un buon lavoro, ma certo, vorrei vedere. E se no cosa ha fatto? Dopotutto c'erano persone adulte sul tetto che sanno quello che si deve fare, per cui problema se metti. Poi, se te l'hanno fatto loro, va bene ugualmente, perché so che lavorano bene. Ok, avanti, Franco. Sì, sicuramente non è uno bellino Claudio a portare le lavagne e l'altro sono bellini, sono gente che hanno esperienza per fare queste cose, sono già piccoli facendo, figurati se ti fanno cavolate, avanti già. E poi c'è lui che dirigevo, io dirigente. E non è poco per esserci un pignolo, Sono un pignolo io lo dico, ma io metto, faccio il nodo, metto, dopo che faccio i nudi nel cavo di tiranti, li metto anche i borsetti, li metto il nastro sopra, rilascio un pezzo di tirante un po' più lungo, di modo che se poi lo devi accorciare o allungare puoi usarlo. Tutte queste cose qua. Mia pignoleria però le faccio, ma infatti l'arma mi è durata 17 anni senza avere problemi, capito? L'ho scesa una volta solo per pulirla e Guarda, io lo stesso ci ho messo un altro isolante, poi ci ho messo un altro vulcanizzante, ci ho messo e di nuovo un altro isolante, ma poi da un po'. No, il vulcanizzante volevo essere sempre per primo, basta che li metti una volta di un altro isolante, proprio che serve solo per stringere il vulcanizzante, serve perché poi quello col vento vola, si stacca col caldo e cose, e rimane il vulcanizzante durito, capito? Rimane durito e gli fa la... si chiama rinforzo. Io gli ho fatti 7 euro. Quando ne ho tolto la mantova, la mantova 5 ne ho tolto e c'era anni sopra. E guarda, è come il giorno che l'ho piazzata. Era bella lucida il pezzo dove c'era il vulcanizzante e il nastro. E i bolloni erano lucidi lucidi, nessun microfono sono usciti, come l'ho toccato subito si è aperto, veloce, e così li innesti, velocissimi uscendo. Ma li hai messi in acciaio i bolloni? No, li ho messo, li ho lasciato i bolloni che mi hanno dato loro. Ah, e allora deve essere che li ha ben, diciamo, ben coperti, in modo che lo si arrugginissero. E così ho fatto io, gli ho tutti vulcanizzati per fare fascette io, oddio, l'hanno fatto loro. Però la verità io non potevo muovermi nemmeno, perché se quando mi muovevo mi veniva il dolore. Infatti sono sceso giù poi a fare il PL con l'ortalino giù e ho fatto qualche cosa con la prestazionale, queste cose qua sì, ma non mi posso inchinare in vita. Ti sto dicendo che c'è un dolore che guarda, non lo avrò manco a quei giorni mica. Sì, vabbè, purtroppo è così Gianni, ma c'erano loro, non era il caso di metterti a fare tu. Se c'hai problemi è ovvio che non puoi toccare, non puoi fare niente. Già con tutti i dolori di aereo che c'hai, figurati se ti potevi muovere. Ma già c'erano loro che ti hanno aiutato. Va bene, avanti Giulio. Ok. Lui era il comandante, ha capito Fra. Lui era il direttore dei lavori, però a distanza, in modo che non intralciasse il lavoro che stavano facendo. Il cappuccetto nel coso c'era, Gianni, per il piede il cappuccetto c'era? No, Giulio, nel piede no, c'era quello di sopra, nella punta, da mettere nella punta, il cappuccetto in plastica, e invece nel piede non c'era nessun cappuccetto, però io l'ho fatto fare a mia cosa, a mio gusto. L'ho vulcanizzato e messo il nastro sopra, come ho fatto con l'altro. L'altro l'ho tolto il piede lucido lucido dopo tanti anni. Oh, Fra. Ehi, figurati. Bello, un bel lavoro è stato fatto. E io adesso ho fatto bene, poi adesso l'avevo ritto. Beh, devo questa cosa. L'avevo riscendere per fargli quel lavoretto che si è attaccato a cosa della massa, si è attaccato, tu basta, però ancora sono l'anno così, non ho fretta. Quanto ti sta arrivando io di segnare, guardalo bene. Guarda, io sono a legge adesso con questo, mi arrivi 8, mi arrivi. Allora, tu qua sei 9,5, secondo me tu la massa ce l'hai attaccata, non è possibile che andrà così. No, l'ho ricontrollata poco fa, che ho cambiato la radio, il barattino ho cambiato. Infatti vi stavo ascoltando tutta la sera, guardi, perché non sono entrato, perché mi ha dato problemi l'MC60, che dovevo collegare qua, e mi ha lasciato le batterie dentro e l'ho collegato a Nico, l'ho collegato, e mi ha scaricato tutte le batterie, non me ne ero accorto. E guardando, poi mi sono attaccati anche i fili. E mi ha dovuto saldare tutto e mettere batterie nuove. Ma secondo me, secondo te può essere che stai uscendo senza massa con questo segnale? Ma Giulio si è sparato. Sicuramente si è allontanato per qualcosa. E vabbè, sto uscendo, vabbè, non sono tanto, dai. 6 watt, 60 a 8. Comunque stai uscendo 9,5, sei arrivato. Sicuramente il tuo smitter è molto avaro, perché non penso di arrivare a 8. È molto avaro come smitter per lui. Sì, ma sicuramente sì. E quello a LED, Lincoln, il presidente Lincoln. Quindi lo conosci questo? Sì. Un po' barotto come segnale, no, perché qua mi stanno dando dei picchi positivi anche quando uno lo guarda. Ti risulta a te? No, negativo, non mi risulta niente. Il mio è fermo e basta. Si muove solo quando muovo io, si muove questo smitter. E tu arrivi, mi apri sino a 8, mi apri, e poi ti fermi. Invece Giulio è sino a 9.10. A 9.5 volevo dire. Ma Giulio è più vicino dal essere, in linea d'aria. Ma più vicino, ma perché non sei tu io? Vieni bene. No, dico in linea d'aria, magari sei più vicino, cosa c'entra? C'hai la piana di punti, passando dritto vai verso il sorso. Ma poi comunque, in ogni caso, sarà che arrivo più basso, cosa vuoi che ti dico? È solo questione di posizione, già, è solo questione di posizione, ma è normale, no? Uno da un lato all'altro ci può essere differenza, è chiaro, è normalissimo. Per cui, ma devi considerare che io sono qui, in zona, e sono a 130 metri, tu sei a 225 metri di altezza sopra il livello del mare, io sono a 130 metri, solo. Eppure l'antenna che è bassa, per cui, sono comparazioni che non si possono nemmeno fare, non se ne può nemmeno parlare perché non è possibile. Le prove si fanno tutti e due con la stessa antenna, con lo stesso apparecchio, cioè con il diverso apparecchio, apparecchio mio, apparecchio tuo, con la stessa antenna, perché l'antenna, anche se la sposti di un metro, ci può essere differenza, ci può essere. No, ma sono i watt che cambiano, io sto scendo con 5 watt adesso. Tu con quanto stai uscendo? 8 watt, 8 watt. Vedi, c'è più parte tua anche. Con che apparecchio stai uscendo? Con un apparecchio da 8 watt. Vabbè. Adesso mi guardo, ti faccio vedere una cosa, Franco. Adesso come mi ascolti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cambio. Io sto usando il Superstar 360 FM. Gianni, adesso sei 9.5. Vabbè, come esci? Adesso quanto hai adesso? 40 watt. No, l'ho messo al massimo in garage. Con 10 watt esce. No, non esce più di 10 watt. Sì, anche di più ne dà. Ne dà anche di più il garage di 10. Ne dà di più. Ne dà minimo, ne dà 18. Sembra così, ma il garage ne dà almeno 18 del watt. Ti ho detto di no, io l'ho regolato a 9 watt, quando moduli te ne dà 10, l'ho regolato io così. Ah, l'hai passato tu? Non te lo ricordi quando l'ho comprato che da 9 watt, che poi l'abbiamo fatto insieme, i 20 anni così. Io non mi sembra l'apparativo tu, io no. Dimmi tu, se io devo pensare alla regolazione o alla preparazione del che abbiamo fatto insieme tramite online, dimmi tu se io la puoi trovare, devo sapere se mi ha giocato un paraggio o no alla regolazione. Io perché me lo ricordo, mi era tutti i cosi VR3 eccetera eccetera, mi erano tutti i cosi da girare per il bar. Ed era un watt, io l'ho portato a 9 watt, basta, non l'ho voluto tirare io perché poi magari c'è con la radio brutta e coso, l'ho lasciato a 9 watt, e non li uso mai 9, li uso quasi sempre, ne uso 5, 4 e mezzo, 5, dai. E niente, poi se vuole aumentare già so aumentare, ma di solito uso così. Gianni, quanto ti arrivo io a te lì? Vieni a vedere lo smitter. Allora, vedo a vedere, provo. Caprai, prova a guardare. E sto uscendo, guarda, sono 6 watt, 6, 10 watt modulati. 6, 9 e 15. 9 e 15. A te Giulio. 9 e 5 qua. 9 e 5. Vedi la differenza? Come da radio a radio? Aspetta, vabbè, modulate che collego la grande. già ce l'ho qua vicino. Io ripeto, sono sempre con l'antenna bassa, oltre a trasmettere più basso, ricevo più basso, no? Ma è normale. Sono un po' perché faremo un altro momento. E il discorso è sempre quello, è sempre quello. Per cui, ripeto già, ho l'antenna bassa, sono in una ballata, perché qui dove sono io, rispetto a Sassari, è una ballata, perché sono 90 metri o 95 più basso di Sassari sopra il livello del mare. Poi la casa è bassa, non è come la casa tua, dove un palazzo a 4-5 piani, quanti piani è dopo il tuo palazzo? Il palazzo ha 5 piani più l'antico. Ah, è vista, e diventano 6 piani, e più i magazzini, e sono 7, che vista, è poco ti sembra. Io sono al primo piano e basta, non ho niente di particolare. Sì, ma quelle antenne, come ce l'hai tu, come ce l'ho io, funzionano anche se le metti in terra, perché sono di puri. E vanno bene lo stesso, anche se tu le metti in basso, non c'è bisogno di metterle in alto in alto. Vanno bene anche in basso, quelle antenne sparano anche da basso. Lo so che funzionano, però l'altezza ci vuole, se non c'è l'altezza, le manca tutto. Lo so, ma che se la metti per terra funziona, perché non ha bisogno del piano riflettente, però se la metti in alto è un altro discorso, no? Beh certo, vediamo un po' se ha cambiato apparato. Franco. Capo, sì, ho cambiato apparato. Prova a vedere. Ok, prova a modulare un attimo, vabbè è freddo adesso, il mio è freddo. No, c'è sempre 9.15 qua, 9.15 mi arrivi, non lo so io quando ti sta arrivando lì, però c'è la smettere diciamo più serio. Ok, tu sei 9.5 qua. 9.5, ok. Allora, adesso aumento il fatto e vediamo un po'. E fa lo scaldare un pochino qua, dopo che è scaldato la pompa. Sì. L'ho parato a 50, l'ho parato. Appunto, perché quello ha bisogno di un po' di temperatura. E con quello smitter invece quando lo sto arrivando io adesso, sempre con quello smitter. Tu sei un po' leggermente più alto di Gianni, ma fesseria però, Franco! Guarda adesso con i vantaggi come va. 9.10. Vedi, più o meno siamo lo stesso. Sì, no. Ma infatti poco fa quando ti ho detto. No, con questo non è da calcolare con quell'altro, perché io mi ricordo i segnali con K ed è tutto diverso. Sì, io ce l'ho riportato come. Se lo disturbi magari. Sì, vabbè, comunque, interessante sentirci e arrivare bene, e arrivare che si senta bene la voce da voi, un riso, un apparato più blues, è un bel apparecchio che si illumina l'età, tutto quanto, e anche c'è marchiato c'è, quindi, è di quelli omologati blues. E il microfono che non mi sta andando, a volte c'è, a volte no. È probabile che abbia qualche cavetto staccato dall'interno nel collettore, probabilmente. Sì, anche io ve lo volevo comprare uno, ma tanto c'è perché non ne avevo neanche uno. E invece poi me l'hanno regalato il 48, nuovo, me l'hanno regalato. E mi sono detto quello lì. Io c'ho il 48 plus, c'ho il Cobra. C'è tutti i marchiati c'è il Milan dalla 48. Ecco, avanti Giulio. Ok. No, io ho il 78 plus, marcato c'è. Dunque, quello ha 400 canali perché è multibande, cioè multinazionale, per cui a Puglia. Però io la modifica non glielo ho voluta fare, perché sì, l'avevo provato e funziona con la modifica eccetera, poi però il ponticello l'ho tolto, però sono tutte delle nazioni, capito? Ha i canali suoi, se i suoi 40 canali per tutte le nazioni. Ma vedono degli apparati che stesso con la tastiera tu riesci a capire l'azione e ti danno più canali. Vedono questi tipi di apparati adesso che sono tutti elettronici. E le case, i canali con i... io ce l'avevo, l'ho venduto perché non mi piaceva, no? Se sbagliavo, il coso era un casino ogni volta entrare nel menu e fare, lui, la sapete. Lo so. Però è stato così perché è uno. Cioè è un barattino praticamente adatto per tutta l'Europa, là, perché secondo dove vai non si può utilizzare con le frequenze che abbiamo noi, anzi addirittura in certi posti, adesso non mi ricordo se forse in Inghilterra, mi sembra che sia, che addirittura varia, la nostra frequenza è diversa da questa, da quella che usiamo noi, da quella che usa la Germania ad esempio, eccetera eccetera, anche quelli della Russia. Ad esempio ci sono i canali, 80 canali e normali come i nostri, quelli in Germania, e 80 canali ce ne sono che sono sotto il 26, là, diciamo. Ma in Germania modulano in FM. Non ho capito, cosa hai detto? Che in Germania modulano in FM. Appunto, non so che modulano in FM. Funziona anche le FM questo, certo, infatti così, solo che l'unica cosa è che non ha frequenzimetro, e lo smitter è piccolino e basta, ma niente di particolare, insomma, ecco, una cosettina, niente, una cosettina da 100 euro, 120 euro. E che deve avere come una farina, è piccolo l'apparato, però funziona bene. Funziona bene, si sente bene, la radio io la sento bella presente. Ma oggia, ma Natalino lo sta modulando con la sessantenna di prima, no? Sempre con la sessantenna. Come mai più basso? Prima l'ho portato più alto. Sì, non te lo so dire, perché c'è un apparato omologato. Prima usciva con apparati che non erano omologati, quindi da quando ne ho sequestrato tutta la roba, ci ha comprato un apparato omologato e si usava solo quello. Racconto dai 2 a 3 di segnale. E avrà 4 watt in uscita quell'apparecchio, è piccolissimo. Ma va bene, si sente bene. Sì, io come radio lo ascolto benissimo, lo ascolto. Ma il segnale è bassissimo. C'è anche l'omologato, sto sempre con l'omologato per quello, prima usciva con altri apparecchi che erano omologati lo stesso, però non erano omologati c'è, e quindi per quello gli hanno messo la multa e li hanno sequestrati. Capo, sì, gli avevo saputo quello. Vabbè, quelli si attaccano a tutto, quando si chiamano e vengono si attaccano a tutto. No, dov'è? Vabbè. Purtroppo Natalino disturba e ha una specie di puntiglia adesso con cui siamo abitati, ci sono vicino. Ogni volta che modula gli ha rotto le foneglie, le fanno, non sta la scillata. Ehi, lo ha chiamato un paio di volte, voi non mi avete chiamato più, dove Dio. No, lui adesso c'è tutto il reno, la vale scopo, se vi chiede come si deve comportare il tasti qui, perché non è possibile, non è possibile. Che rompono le palle ogni volta che entra il barattino, lui adesso è in regola, era in regola anche prima, perché prima gli omologati erano quelli che andavano bene, solo che adesso con la nuova legge devono essere marcati c'è, quindi non era più in regola per quello, ma erano apparati che vai scegliere con sicurezza. Ma scusa, il marchio c'è, cos'è che ti dà di più dell'altro, del vecchio? Esce 5 watt uno e 5 watt l'altro, esce. Però è uguale, la radio è uguale. E non lo so su che cosa si pagino, però se non è marcato c'è, te lo sequestrano. Anche gli apparecchi tipo l'alimentatore, deve essere tutto marcato c'è. Se te li trovano modulando, attaccati, ma se sono attaccati non li tocchi. Lo so che è così. anche loro sono giocati, hanno preso ad Altavia, in quel maniera. Allora, cosa c'è tra loro adesso? Che non era marcato accesso. Ma com'è che io qua, ci vorrei mettere a noi, rosa, mettere tutti i minuti. E il barattino pure marcato accesso, ma è uguale. Ma buon anno, io vi lascio, che la cena. Ci sentiamo. Ciao fra. Ciao Gianni, a domani. Salutori, riprendi pure fra. Io chiudo, dai, ascolto, finale chiudo. Ciao. Ciao Giulio, buona proseguo con tutto, dai, ci ascoltiamo domani. Avanti Gianni. Ciao Giulio, buona continuazione in serata, dai. E domani più pimpanti, più bugio, e hai già chiuso per crescere. Avanti Franco, di nuovo. E ciao. Te lo immagini io. Stavo usando l'MC60 sulla Nikon, il TMR, no? Ma l'avevo dimenticato dentro l'MC60 le batterie, l'avevo dimenticato, me le ha scaricate a zero, l'ho attaccato al presidente Linco e non funzionava via, come mai? Deve essere che c'ha anche il filo per farlo andare in diretta e alimentarlo dalla panica, che è quello. Sì, l'MC60 è alimentato, lo alimenta direttamente come il tipo, no, come questo. Però con l'Icon l'alimenta direttamente. Però se lo attacco al presidente Lincoln, ci vogliono le batterie. È per quello. Ho capito, ma se tu hai lasciato le batterie, le hai attaccato, cosa le hai attaccato? La IAIO. Magari è diretta anche quella l'alimentazione, se l'ha bruciata, se le ha scaricate. Esatto, le ha caricate perché era diretta l'alimentazione. E vabbè, e lì ho detto, ma cosa che avevo le sottese anche il microfono, avevo le sottese, ho tutto aperto, sotto guardato, e poi guardando, tirando, c'aveva la custodia delle batterie, che era un po' rotta, io stavo aggiustando, e si incacca le bulle lì, è giocato, la vaffa a Napoli. Ehi, vabbè, so cosa succede, magari perdi la testa perché non capisci che cosa sia e poi la pesci via. So cose che succedono, anche a me ne sono successe, poi nella 27 ci sono degli inghippi allucinanti qua. Ti succedono delle cose stranissime, ma proprio strane, tipo un apparecchio lo lasciavi aperto e funzionava benissimo, li mettevi il coperchio dopo che l'avevo verniciato questo, li mettevi il coperchio e il catenò non funzionava più, non si spegneva, non accendeva più. Ho detto cos'è questa cosa? E ho messo delle rondelle di gomma che ci avevo. Chiude le viti, beh, l'apparecchio funziona. Io ne avevo uno barattino così, ne avevo, una volta, che a questo qua non so cosa gli è successo, le avevo tolto il coperchio, non mi ricordo perché cosa, gli avevo tolto, gliel'ho rimesso e fischiava, quando schiacciavo la portata si fischiava, glielo toglievo e funzionava bene. Quello lì, l'abbiamo detto che lo usavo sempre senza coperchio, perché non capivo cosa era. Quella semplicemente ci attaccava una treccia di massa dietro, non te lo faceva più. Ma lo già dico, sempre, guarda, come schiacciavo, come mettevo il coperchio, fischiava, ma fischiava forte mi. Ha detto, ma va a far Napoli, allora glielo ho tolto, l'ho messo da qua, e ci avete pusciato là, e ha sempre funzionato bene. E l'ho usato sempre a casa, così, no? A pagare. Vabbè, frada, io ti saluto, devo portare giù il cane, che tu non ho visto l'orario che ore erano. Invece è tardi, ti saluto, ti auguro buona serata, si è fatto tardi oggi, potevi entrare prima, ma qui hai fatto quel lavoro lì, quindi hai anche ragione tu, dai, quando c'è qualcosa da fare si ascolta e tutto. Va bene, dai, ci sentiamo, buona serata anche a te. Grazie, ciao Gianni, buona passeggiata col cane, dai, ce ne ascoltiamo le prossimine. Ciao. E quando ti viene bene vieni a ritirarti quella cosa, te l'ho già detto, non c'è problema. Ma lo vuoi piattare tu? No, se no l'avrei già fatto. Ce l'avevo sul capo, l'ho buttato giù e niente, l'ho cavolo, no. Perché pure ci mette l'antenna alla casa della ragazza. Cazzo, va bene, dai, qualche giorno che vengo e salgo a Cazzari, che sono da solo, e passo lì. Tanto avevamo deciso di uscire anche con Marco un giorno e andare a trovare un amico. Cazzagata. Andrà bene, ci sentiamo, dai. Buona serata. Ciao, buona serata anche a te.